posso più, non ne posso più. A me tutti gli incarichi, tutti i fastidi a me. Un direttore di scena sta peggio nulla che. In mezzo a tanti re di carta pesta, c'è da perdere la testa. Seguir le chiacchiere, molicer le inghie, lacar le colle, romper le cavole, spentar le insidie delle pettegole, mattino e vespro, vespro e tardi, senza mai fine. Ah, se non fosse il vostro sospirato, di saggio proprietario, per sbarcare il lunario, e di Bouillon e l'abate di Chazey, che fortuna colui il mecenate della Duclos, di chimica dilettante e d'amore. E la mattina il ninnolo della moglie Teodore, odor di palcoscenico, le grazie di Ernestir. Principe! Caro, caro! Gran visir! Madame Gela, come vi chiamerei stasera? Fatina! E voi? Lisetta! Siete una vera sultana del serraglio! E voi la primavera? Principe, questo è l'emo! D'amor parmi un bersaglio! Ardo nel guardarvi. Abate, eccovi il mio ventaglio. Fior d'amore. Abate, dolce nero, vaga più che splendi al seno, poveggiante, come un astro, sovrampendo, come un astro nel seno, sovrampendo da davante, e vieno bianco mare, dell'oblio, d'altri mille, argomanti, il chiuso fuoco, del desio, fai, fai, fai gli sguardi navigar. Il cielo è rimasto scandisce ben basta. Tu scherzi, figlia mia. soffro, signori sangranti. Non sono morto ancora, io neppure, non lo so. Ella mi osservavo, io passo giù, per voi non ho misteri. Non Thank you. Lasciami! E poi? Non qui! Attendimi all'uscita! Un pegno! Grazie! Graziosissima, lo so ben io. Atteso siete, fede e silenzio. Punto. E la firma? Costanza? Perfida! Il suo pseudonimo? Da me trovato. Madonna in vero re, a cuore ingrato. Costanza Ionica, Menestrionica. Ed il recapito? Terzo palchetto a destra. Oh, diavolo, quale sospetto? Conosci il complice? Forse. Maurizio! Il conte! Entrare l'ho visto là. E dunque lui? Dubbio non va. Che far? Che far? Mirabile ardito, verrà partito, anello d'amore, io vesti, mirabile ardito, vogliamo due tortoli, tanto sospetto, il dolce duetto, rimetter dovrane, di Marte e di Venere, per orsi di me, morte e tutta Parigi, appena rinesta, dell'illa le festa, il vinto saprà, ci arridono incauti, amore di me, ma riderà bene, morirà! Quanto piacevole entrarti, la principe, e figliamente, e protettore, a tutto l'ore, e vinto, c'è sta cosa, ma la sospetta, è più potenta, e senza un po', una spagnola, questo al numero tre a destra un mister non soltanto dei nomi la vendetta e piacere dai testino fratto di accordo mi piace il disegno di quella partita di l'amore dai testino sepolcro falsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni costo. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei favori. Perder l'appuntamento con Adriana, mai, mai. Però questo biglietto che la diclomi invia, ah, forse in quel diretto, è sempre per quell'altra, si tratta certamente della mia non impresa. Eccolo, finalmente. Andate al cardinale, alla principessa avrà che fare. Aspettare l'uscita ad Adriana. Fare per foglio per Rossana, alzati Mario. E canta, canta, canta, sei fritta, sei fritta. Mi sorella, mi canta, per lo la scena, la corte.